Buonasera a tutti, io porto il saluto formale e non dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Pistoia. Saluto il Presidente del Consiglio Direttivo che ho l'onore di rappresentare. Qui in prima fila c'è Sonia Soldani, che è l'altra vicepresidente con il sottoscritto. Volevo partire innanzitutto da una domanda che mi ha fatto un mio studente nei giorni scorsi. È una domanda che fa riflettere, perché mi ha detto: Prof, cosa mi servono i Sumeri? E in effetti è una domanda che apre molti interrogativi, ma soprattutto ci permette anche di riflettere. Bene, alcuni suoi compagni e compagni hanno detto: No, ma ti serve per cultura. È vero, i Sumeri sono quelli che hanno inventato la scrittura cuneiforme. La stessa domanda me la poteva fare per quanto riguarda l'antica Grecia. Pensiamo alla polis, pensiamo alla acropoli, pensiamo a tutta l'arte greca e così per tanti altri eventi storici. Allora io l'ho ascoltato e poi ho detto: effettivamente non hai tutti i torti, perché se andiamo a guardare i programmi ministeriali, praticamente la storia del Novecento si studia in quinta e a malapena si arriva alla Guerra Fredda, proprio a malapena. Allora, quello che mi chiedo io, è un problema dei programmi ministeriali? È un problema dei docenti che, diciamo così, volendo, potrebbero bypassare tutto ciò che riguarda il 7 e l'800 e andare direttamente al 900, partendo già dal quarto anno, e quindi trovare modo, maniera e forma per insegnare nel modo opportuno la storia del XX secolo? Potrebbe essere. Però mi sono posto anche delle altre domande. In che cosa e dove noi abbiamo sbagliato? Perché se faccio riferimento, apro e poi chiudo la parentesi, all'Istituto Storico della Resistenza, come Istituto Storico della Resistenza di iniziative, e questo lo può testimoniare Aldo, che è qui accanto a me, che anche lui fa parte del nostro direttivo, ne facciamo tantissime, perché noi abbiamo non solo presentazioni di libri, facciamo convegni, facciamo seminari, andiamo nelle scuole a parlare di questi temi. Però non è così facile, perché di fronte a platee magari delle volte di 200-300 ragazzi, ce ne può essere uno, due, tre che fanno una domanda, che sono incuriositi. Allora, dipende dai ragazzi che sono annoiati dal sentire sempre la storia che porta alla nascita del fascismo e poi alle sue conseguenze. Sono annoiati quindi a questo periodo storico e sono più interessati a ciò che succede dopo il 1945. Dipende, oppure dipende anche da manuali che loro hanno in uso, perché anche su questo ci sarebbe da dirne molto, perché a me è capitato avere a che fare con manuali fondamentalmente che insomma c'era un po' da discutere, perché dettagliati enormemente e poi all'atto pratico quello che a loro li serve sta all'insegnante fondamentalmente fare sintesi, perché libri magari anche scritti da storici importanti, da persone autorevoli, da persone che siamo abituati anche a leggere sui giornali, ascoltare in televisione, però libri che sono per me sono troppo, cioè si insiste troppo magari su cose che poi alla fine hanno una valenza non troppo importante, mentre su quelle importanti succede l'effetto contrario. Quindi questa è un po' la domanda che mi sono anche fatto, cioè dove abbiamo sbagliato e se abbiamo sbagliato, cioè perché non riusciamo a far coinvolgere i giovani e non solo a quella che è la storia del Novecento. Allora, in che modo? Dobbiamo cambiare un po' traiettoria per far diciamo così, avvicinare i giovani allo studio della storia? Allora mi viene in mente, per esempio, perché non partire dallo sport, si potrebbe partire dal ruolo che aveva, per esempio, il calcio durante il regime mussoliniano. In quel periodo, se siete un po' appassionati di sport, se vi ricordate, la nostra nazionale vince 2 mondiali consecutivi. Nel 1934, guarda caso, i mondiali vengono organizzati in Italia e la finale si gioca, mi sembra, a Roma, e dove i nostri atleti, appunto, anche in virtù di quello che era la situazione del periodo, tutti dovevano appunto fare il saluto romano. Poi lo vinciamo nel 1938, ma non c'è solamente quello. Quindi, partendo dal ruolo che ha il calcio, il rapporto fra calcio e fascismo, e c'è un libro interessante uscito qualche anno fa per Mondadori, questo potrebbe essere già un buon punto di partenza. Il fatto stesso che l'unico giocatore, uno dei pochi giocatori che si rifiuta di fare il saluto romano è Bruno Neri della Fiorentina. Lo stesso vale, per esempio, anche per quanto riguarda la lotta di liberazione. Per la lotta di liberazione non so quanti di voi sanno che qualche anno fa è uscito un libro che si intitola Cuori Partigiani, cioè il ruolo dei calciatori nella resistenza. Cioè, possono sembrare magari così delle piccolezze, delle sciocchezze, però questo secondo me potrebbe essere anche un modo e una forma, poi partendo appunto da qualcosa che coinvolge tutti, perché ormai non c'è occasione direttamente o indirettamente parlare di calcio. Telegiornali, sui giornali, su internet, ogni scusa è buona per parlare di calcio. Quindi parliamo allora del rapporto fra calcio e fascismo, parliamo del ruolo che i partigiani, appunto i calciatori partigiani hanno avuto nella resistenza. Parliamo del fenomeno ultras, per esempio alcune curve che tutt'oggi purtroppo ne vediamo sulle nostre cronache, penso alla Lazio, penso al Verona, dove non si riesce al massimo più che una multa, quando invece, diciamo così, mi permetto e poi chiudo la parentesi, un paese serio, una federazione seria, questi li cancella direttamente dal massimo campionato nazionale e li fa ripartire dall'eccellenza. Questo credo che un paese serio, una federazione seria dovrebbe fare questo. Possono fare tutte le multe che vogliono, ma tanto questi continuano a fare quello che vogliono. Quindi secondo me questi sono due esempi importanti da seguire, da cercare un po' da fare in modo che i nostri giovani si appassionino o riappassionino allo studio della storia. Per quanto riguarda il libro, io l'ho trovato un libro semplice, ma non in senso negativo, non ha un'accezione negativa alla semplicità, perché la semplicità credo che ne abbiamo bisogno in questo mondo così caotico, così complesso, così difficile, cioè proprio il mettere i fatti in sequenza come effettivamente e realmente sono avvenuti. Cioè, questo è il pregio del libro e questo è il merito che do all'autore, cioè senza commenti ulteriori, cioè raccontare come le cose effettivamente si sono svolte, e si sono svolte proprio in quella maniera, non in modo strumentale come succede, purtroppo, e sta succedendo spesso su tutta una serie di vicende che sono giunte fino a noi. In particolare, e qui mi voglio un attimino riallacciare alla parte che riguarda il periodo degli anni 60-70, che Ivano citava nel suo intervento introduttivo, ovviamente lui e anche altri che sono qui con noi stasera hanno vissuto. Sapete voi che la proposta di istituire l'ennesima commissione d'inchiesta su quel periodo storico, ma non dal 1969, dal 1970, e un motivo ci sarà, è perché si vuole fare una commissione d'inchiesta partendo dal 1970 in poi, perché il 1969 è l'inizio della strategia della tensione, e la strategia della tensione, vi sfido tutti, andate a leggere le sentenze sulla strage del 12 dicembre, andate a leggere Guido Salvini, mettetevi in contatto con l'associazione dei familiari delle vittime del 12 dicembre, oppure mettetevi in contatto e parlate con Paolo Bolognesi, che ho avuto l'occasione di conoscere, come ho l'occasione di conoscere i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Anche lì ci sarà da divertirsi il prossimo 2 agosto, e quindi dovremmo essere veramente in piazza a presidiare. Cioè, questo, ritornando, quindi facendo un passo indietro e ritornando a quello che sta dicendo, il pregio di questo libro è la semplicità, è quello che non solo deve fare in questo caso Rifondazione, ma che dovrebbe fare l'AMPI, che dovrebbe fare l'Istituto Storico della Resistenza, cioè trovare modo, maniera per... questo non vuol dire... E bypassare la scuola, bypassare i dirigenti, bypassare i collegi dei docenti, cioè bypassare tutto l'organismo scuola e far sì che i nostri studenti studiano su manuali diversi. No, però un ampio, un istituto, Rifondazione, insomma le associazioni democratiche e progressiste dovrebbero anche loro dare una mano in questo senso a creare, chiamiamole dispense, chiamiamole appunti, chiamiamoli con il nome che vogliamo, però un qualcosa che agevola i nostri studenti nello studio della storia del Novecento. E dobbiamo fare una grande battaglia culturale, perché alla fine, torno alla domanda che mi ha fatto il mio studente, ha ragione, perché con tutto rispetto per i Sumeri, con tutto rispetto per la Grecia, per Roma, per l'arte, per la cultura, che poi tangibilmente lo vediamo anche qui, basta andare in Sicilia, basta andare in Campania, basta andare in Calabria, i segni della cultura greca ci sono e sono segni importanti. Però credo che c'è bisogno di immergersi, come se ci si immerge in un fiume, come si fa il bagno nel mare nella storia del Novecento, e quindi si può fare, secondo me, nei modi, nei termini che ho rappresentato. Ho parlato anche fin troppo e vi ringrazio a nome dell'Istituto Storia della Resistenza.